Annelore Homberg, che appunto ci parlerà di senso di colpa, elaborazione del lutto e sindrome post-aborto. Grazie. Buonasera a tutti e grazie di essere qui ancora nonostante la tarda ora. Ringrazio anche la Laica per l'invito. Mi presento, sono un po' un elemento di minoranza qui perché io faccio la psichiatra e la psicoterapeuta e come saprete probabilmente la psicoterapia la si può fare in tanti modi. Io lo faccio come tanti altri colleghi qui a Roma con un approccio psicodinamico che però non è quello, come dire, che poi forse viene in mente quello freudiano, kleiniano, eccetera. Mi è stato chiesto di intervenire su un tema che io posso affrontare dal punto di vista clinico perché sono situazioni che come colleghi anch'io ho visto nei decenni in cui ormai faccio la psicoterapeuta e cercherò di proporvi le mie considerazioni su questa tematica. Il titolo è Sensi di colpa, elaborazione del lutto e poi questa sindrome post-aborto che io francamente non conoscevo. Anna Pompili mi ha fatto conoscere questi siti orrendi che appunto postano questa sindrome che dal punto di vista psichiatrico è un totale nonsense. Mi sono un po', come dire, non dico divertita, ma mi sono resa conto quanto il tema si desta delle confusioni quando ho visto il titolo di questo mio intervento nel programma, in cui così per una semplice vista sono state tolte le virgolette all'elaborazione del lutto. Quindi, come dire, voi troverete là sensi di colpa, elaborazione del lutto senza virgole e poi sindrome post-aborto e lì ovviamente cambia subito il senso della faccenda, no? Perché se io prendessi sul serio il termine elaborazione del lutto dovrei pensare che in effetti una interruzione di gravidanza presuppone la morte ovviamente di un bambino. Quindi prima osservazione ovvia, banale, ma quanto diciamo micidiale l'uso del linguaggio e quanto l'uso del linguaggio determina il pensiero e viceversa, c'è proprio un cortocircuito tra le due cose. Adesso cercherei di andare avanti se solo mi ricordassi su quale pulsante io qui devo pigiare. Pigio uno, qualsiasi, chissà se mi esplode tra le mani la cosa. Ecco. Grazie, ok. Cercando di non irritare i colleghi che vedo qui, i colleghi psichiatri, per un'eccessiva semplificazione delle cose, vi proporrei una suddivisione che ritengo abbastanza utile per affrontare la tematica di sensi di colpa eventualmente sorti dopo un'interruzione di gravidanza, perché distinguerei nettamente tra sensi di colpa che io qui provvisoriamente ho chiamato sensi di colpa superegoici e, come dire, sensi di colpa che forse sono, adesso parlo in maniera un po' pesante, colpe reali in quanto si riferiscono a reale carenze dell'io. I sensi di colpa superegoici, come ho scritto qui, ovviamente non derivano tanto da sensazioni autoctone alla persona, ma derivano da influenzamenti esterni e molte volte sono le posizioni, i giudizi espressi da altre persone. Questi giudizi poi vengono resi interni, interiorizzati, introiettati, si dice in campo psicosomatico, e costituiscono quello che nella letteratura viene chiamato con questo termine superio e coscienza morale. Secondo alcuni approcci, questa modalità di formarsi introiettando i giudizi e le posizioni espressi e vissuti dagli altri sarebbe l'unico modo come l'essere umano può formarsi una coscienza morale, altrimenti noi non avremmo un senso, diciamo così, di che cosa è tra virgolette il bene e il male, che cosa va bene, che cosa è distruttivo e non lo è. Noi, insomma, io qui vi propongo una posizione nettamente contraria perché sono del parere che il superio è sostanzialmente sempre un'istanza patologica. Ci potrebbe benissimo essere un apparato psichico che ha un rapporto con la realtà funzionante e che non ha un superio. Per questo, secondo punto, sostengo che i sensi di colpa superegoici sono sostanzialmente falsi e quindi non si riferiscono alla verità delle cose. E come ho già detto, e questo non cercherò di non spiegarvelo per chi vi chiedereo davvero, si legano in termini psicodinamici al processo della identificazione. Identificazione che riteniamo essere sempre una dinamica che scaturisce là dove c'è delusione nel rapporto interumano. Io non mi identifico mai con una persona che è stata adeguata, che ha risposto alle mie esigenze, mi identifico con qualcuno che mi ha deluso, che mi ha provocato un vissuto di rabbia, di odio. Poi, l'ultimo punto, questi sensi di colpa falsi sono tanto più influenti quanto più sono stati creati, si sono formati in fase precoci della vita. E qui andiamo ovviamente sulla fase dell'infanzia. Faccio un esempio, senza volermi qui dilungare troppo, potrei dire educazione religiosa, ma potrei anche dire educazione ideologica nell'infanzia. Ecco perché tutte le istituzioni ideologiche o religiose ci tengono molto a avere un rapporto esteso con i bambini. Più sono piccoli, meglio è, perché più si prestano ad avere, come dire, una deformazione in termini superegoici. Qui ho soltanto scritto in maniera molto, molto banale quello che accade a un bambino piccolo. Quando, per esempio, all'asilo nido gli viene raccontato che esiste il cielo e esiste il limbo, come abbiamo appena sentito, ma esiste anche l'inferno. E quindi c'è un'istanza superiore che mi controlla e che mi punisce e se questi pensieri, se le mie pensieri e le mie azioni non vanno bene. Viene introdotto sempre, e questo è l'elemento dell'illusione, questa dimensione di terrore e di paura. Non si crea un superiore se non c'è un vissuto di terrore e di paura. Poi ovviamente ci sono altre persone che sanno cosa vuole questa istanza superiore, sia una divinità, sia non so, qualche altra istanza superiore, e quindi devo fare quello che queste persone mi dicono di fare, altrimenti finisco punita. E fin qui, insomma, è pedagogia semplice, i gesuiti ci sono stati sempre maestri della violenza che l'infanzia normalmente subisce. L'interiorizzazione che qui ci interessa è quella cosa che fa sì che io vada un passo avanti e dico, se io non faccio ciò che queste persone mi hanno detto che dovevo fare, devo provare sensi di colpa e poi eventualmente mi devo punire da solo o da sola. Questo noi come psichiatri, come psicoterapeuti lo vediamo frequentissimamente, soprattutto in paesi che hanno una forte tradizione di tipo cristiano. Non avete un'idea quante le persone sono capaci, le donne poi in particolare, di punirsi da sola, no? Frequentissimo, per esempio, una donna che, come dire, ha fatto un'interruzione di gravidanza, poi appunto ha voluto successivamente di figli e magari in primo momento questi figli non vengono per qualsiasi motivo ginecologico e poi è abbastanza, diciamo, la norma che quasi poi si va a scovare sotto sotto nei sogni, nei pensieri riconditi della persona, viene fuori è la punizione perché appunto ho fatto questa interruzione di gravidanza. Quindi mai sottovalutare, ho imparato in questi 30 anni che lavoro come psichiatra, la forza con cui le persone riescono a punirsi da sole, insomma, facendo tante cose che non dovrebbero fare o vivere o vivendo in una maniera più o meno autolesiva, autodistruttiva. Qui i colleghi presenti mi rideranno in faccia perché scrivo come se fosse così semplice effettuare la cura, ma effettivamente quando si tratta di sensi di colpa superegoici la cura è relativamente semplice perché, come dire, logicamente se il problema è l'identificazione che ha creato questo giudice interno che dice un sacco di cavolate, si tratta di superare questi processi di identificazione che sono scaturiti, come ho cercato di dirvi prima, da rapporti umani deludenti. E quindi il terapeuta deve tentare di proporre un rapporto umano che non è deludente e che riesca a far recuperare alla persona la capacità di vedere la realtà umana per quello che è, in altre parole poter distinguere tra persone distruttive e deludenti, come quelle di un tempo mi hanno creato il superio e rapporti umani che invece sono evolutivi. Qui insomma, introduco un altro punto, che sono questo concetto di sensi di colpa per carenze reali, che ovviamente apre un enorme dibattito e come dire, non potremo portarlo a termine stasera, però cerco di darvi degli input per alcune tematiche. Esiste in particolare in Italia da una quarantina d'anni una teoria sulla formazione della psiche umana e sulla configurazione dell'inconscio che è piuttosto originale, e dato che è una cosa italiana ovviamente non deve essere presa molto in considerazione, perché come le cose importanti si sa nascono attualmente nei paesi di lingua anglosassone, di lingua britannica, o in passato nascevano in Francia o nei paesi di lingua tedesca, e va bene, questi sono problemi diciamo così all'interno del nostro magnifico paese. Quello che questa teoria dice in parole povere è che, come dire, nasciamo già con qualcosa che si può chiamare un io originario e che in fondo rimane, è a livello assolutamente preverbale, pre-razionale addirittura, il nucleo dell'identità personale, e che è il motore di una continua spinta alla realizzazione della propria capacità che l'essere umano ha, ma è contemporaneamente anche il motore, la spinta per la realizzazione dei rapporti interumani validi e la capacità di conoscere tutta questa complessa realtà umana. Quello che però è vero è che questo io originario, che secondo questa teoria viene a formarsi proprio nel momento della nascita, è estremamente fragile e dipende dalle esperienze di rapporto, quindi si può alterare in senso negativo fino a sparire completamente, e queste sono poi le diverse diciamo conseguenze che noi come psichiatri, come psicoterapeuti ci troviamo a affrontare. Quello che vi voglio proporre è che questo io, se non sparisce completamente, reagisce con segni anche vivaci di sofferenza se ci sono queste lesioni interne. La depressione in quest'ottica è un segnale di allarme per una lesione, per una carenza proprio in questo nucleo della personalità. Succede quindi che, faccio l'esempio del depresso, che il depresso quando dice io non vado bene perché questo esame all'università mi è andato male, io non vado bene perché non vinco mai un concorso, esprime un vissuto depressivo e se lo spiega anche. Si attribuisce un deficit, una colpa, una inadempienza. E la normale reazione sarebbe di dire ma non è vero, ti è andato male questo esame ma hai fatto altri 10 bene, allora perché te ne fai un problema di questo? No? Però questo è stranamente una cosa che al depresso non aiuta niente, diventa sempre più depresso. L'approccio che noi seguiamo è piuttosto di prendere sul serio questa autoaccusa, io non vado bene. Perché probabilmente da qualche parte in effetti c'è un deficit, c'è una violenza, c'è un vuoto per così interno che la persona depressa stesso avverte. L'unica cosa non la sa indicare bene e adduce delle cause che sono molte volte assolutamente irrisorie. Quindi si tratta di prendere sul serio diciamo la valutazione del depresso, che c'è qualcosa che non va in me, ma trovare quello che è veramente la carenza. Se cerchi solo di consolarlo, lo cacci sempre più in un atteggiamento depressivo. Ecco. Qui ho un esempio di una depressione di una ragazza di poco più di 18 anni, però questo adesso salto un attimo, solo per dirvi che la cura della depressione è estremamente affascinante proprio grazie a questo approccio, perché dobbiamo sempre cercare questo, come dire, dire alla persona, se tu pensi che non vai bene, ci avrai motivi, però tu non sai che cosa è veramente questo motivo, cerchiamoli insieme e cerchiamo di vedere come lo possiamo superare. Adesso arriviamo al tema specifico di questa serata, che appunto è l'aborto volontario, gli voli volontari, e qui vorrei prima trattare i sensi di colpa superegoici. E direi che, come dire, come già venuto fuori dagli interventi precedenti, il senso di colpa si incentra molte volte sul fatto io ho ucciso un bambino. Insomma, questa idea in qualche maniera viene fuori e viene ovviamente anche fomentato da tutte le istanze ideologiche, fondamentaliste, eccetera. E io direi qui però c'è non soltanto la responsabilità di questi movimenti orrendi pro-life e queste cose folli di cui abbiamo visto gli esempi, ma c'è anche una responsabilità delle scienze, perché in fondo esiste da parte scientifica una scarsa certezza sul punto quando è che comincia la vita umana. Il codice giuridico e le leggi sono chiare in proposito, ma secondo me le scienze, anche quelle biologiche, hanno, diciamo così, dei margini di insicurezza, di incertezza alquanto ampi in proposito. Se a questo aggiungete che per millenni la prova di vita è consistito nel fatto che ci fosse un battito cardiaco, che ci fossero dei movimenti spontanei, capite anche come per una persona non scienziata è difficile dire qui appunto c'è il battito cardiaco all'esame, sento i movimenti, allora come faccio a pensare che non c'è un bambino? No? A questo si aggiunge ovviamente l'ecografia, che fa vedere a un certo punto una configurazione e che sembra appunto quello di un bambino. Quindi c'è un pensiero millenario che ovviamente non è formato su quello che sappiamo oggi, che non ci può essere una vita se non c'è un'attività cerebrale di un certo tipo. Questo non è ancora come rientrato nell'immaginario collettivo ed è tra l'altro anche coadiuvato dal linguaggio. Non abbiamo ancora le parole veramente fluide di uso comune per indicare la realtà fetale. Anche a noi che siamo laici scappa di dire la vita che ha in grembo, il bambino che ha in grembo. Il tedesco ha inventato questa contraddizione logica, parla di vita futura, la vita in divenire, ma se vita deve esserci, se futura vuol dire ancora non c'è. Quindi, come dire, ci sono dei problemi di immaginazione, di fare un pensiero di che cosa possa essere questa realtà fetale, e conseguentemente c'è un linguaggio che si è creato nei millenni precedenti, ma che non ha, diciamo, i termini delle cose che noi sappiamo adesso. Ovviamente a questa scarsa chiarezza della scienza, il fondamentalismo cristiano, di cui ho sentito adesso delle cose che non pensavo possibile, contrappone delle certezze che sono assolutamente false e che sono tra l'altro storicamente datate, insomma di questo abbiamo già sentito parlare. Quello che noi osserviamo clinicamente che questa, diciamo, contrapposizione tra una certezza falsa e una incertezza non dichiarata crea problemi anche per persone che non sono coscientemente credenti o non lo sono più, o perché nell'inconscio, come dire, questo condizionamento della prima infanzia ha delle radici che non sono state veramente superate. Oppure, e questo va insieme, si opta per una soluzione pragmatica che è, come dire, l'idea di per sé preziosa, storicamente favolosa dell'autodeterminazione della donna, ma che diventa poi il ragionamento nel dubbio, come dire, il mio diritto di determinare la mia vita vale di più del diritto del bambino a condurre la sua esistenza. Questo, e l'ho detto qui in maniera, diciamo, molto placato, conduce poi a qualche cosa che potremmo chiamare la libertà di essere assassine. E queste sono cose che noi vediamo, insomma, in donne evolute, femministe, insomma, in cui sotto sono, sì, ho optato per la mia libertà, ma la libertà ha comportato la morte di un bambino. Ecco. La cura per questa problematica, e quindi per certi versi, è prima di tutto scientifico e culturale. Cioè di cercare come scienza di fare chiarezza su qual è il punto a partire dal quale si può parlare di vita umana. Questa è una sfida proprio alla ricerca neonatologica, biologica e ostetrica. Ritengo che senza fare questo l'opposizione al fondamentalismo feroce delle chiese rimane un'azione di goodwill, in cui appunto io cerco di convincere la donna o il partner che non hanno fatto nulla di male, ma non ho veramente un argomento che, come dire, affronta la cosa fino in fondo, perché non ho delle idee mie proprie in proposito. Per arrivare a queste, diciamo, a queste due espressioni, elaborazione di lutto e sindrome post-aborto, qui, diciamo, la risposta è chiara, sono tutte e due delle diciture che spingono invece a aumentare, a rinforzare, a, come dire, rendere ancora più feroci i sensi di colpa sipegoici. Purtroppo devo chiederti di chiudere perché okay. poi abbiamo anche problemi con la sala. Ok, siamo al tempo. Allora vado molto volte velocemente per dire che questo è importante, questi sensi di colpa superegoici vengono vissuti non soltanto dalle donne dello partner, ma riguardano anche i medici e il personale paramedico. E quindi tutto quello che può essere fatto per chiarire quando è che comincia l'inizio della vita umana è una cosa che ha beneficio sia delle donne del partner, ma anche del personale. Per resto credo che non posso andare molto avanti perché volevo soltanto dirvi che abbiamo con la teoria della nascita che è stata elaborata in Italia un'idea interessante su come è che nasce la psiche umana, che non è un processo durante la gestazione ma avviene al momento della nascita, però magari avremo modo di parlare con altri relatori di umani di questo. Vorrei soltanto chiudere e dire che esistono ovviamente poi reali carenze dell'io rispetto alle donne che rimangono incinte quando potrebbero anche non rimanere incinte, e qui non sono d'accordo sul fatto che appunto è la totale libertà e va sempre bene rimanere incinte quando si potrebbe anche evitarlo. Questo va, però non è compito del ginecologo e del personale paramedico sindacare su questo, ma se da noi come psicoterapeuti vengono delle donne che sono depresse, sono angosciati e poi viene fuori questa gravidanza, poteva benissimo non esserci, io ho il dovere come psicoterapeuta di dire che questa gravidanza è avvenuta per fatuità, per un controllo del partner, per violenza del partner o per la tua volontà di colpirti perché la sessualità andava bene e questo tu non te lo potevi okay. permettere. Grazie. E con questo chiudo e scusa, grazie, l'esposizione lunga. Grazie mille.